You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare e non avvanvera contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 dedicato all'Italia che cambia, ai nuovi italiani, e lo facciamo sulle basi di questo audio, di questo film antico ormai, Indovina chi viene a cena, che parlava di integrazione, identità e pregiudizi. Allora sediamoci proprio a tavola, prima di presentarvi però il nostro ospite, per ambientarci un po', ci spostiamo in cucina, ma sentite che cucina. Benvenuti nella cucina di MasterChef. Ho il piacere di avere come ospite questa sera un vero e proprio chef, il vincitore della prima edizione della fortunata trasmissione di Sky MasterChef, Spiros. Buona serata. Buonasera, buonasera, grazie per il vero e proprio chef, complimento. Beh, ci mancherebbe, insomma, il vincitore dopo una selezione così ardua e poi comunque sì, sta continuando a occupare di questo, no? Allora, Spiros, per chi non lo conosce, è appunto il vincitore della prima edizione di questa trasmissione e un po' è stata una sorpresa, una beffa per noi italiani, perché siamo così orgogliosi delle nostre arti culinarie, invece a vincere è stato lei, che in fondo non è italiano di nascita, è italiano perché vive da molti anni in Italia, ma è greco di origine, così? Sì, esattamente così. Io sono nato in Grecia e poi sono venuto qua a vivere, sono diventato italiano dopo. Di nascita di Atene, se non sbaglio. Sì, tra l'altro quest'anno coglievo l'occasione di invitarla anche perché fra i 20 partecipanti selezionati, tra moltissimi partecipanti, mi sembra 15.000 la partenza concorrenti, tra i 20 finalisti, possiamo così dire, ben 4 sono di origini straniere. E questo è molto curioso. Allora abbiamo, per chi segue la trasmissione, in trasmissione c'è Giovanna che arriva dalla Polonia, Rashida che è un'immigrata di origini marocchine che ora vive a Bergamo, e poi due ragazze di seconda generazione, Emma che ha origini africane perché i genitori sono del Senegal, anche se lei viene da Cuneo, e Aeri che arriva dalla Corea del Sud. Sentiamo proprio come si presentano in questa nuova edizione. Mi chiamo Karati Rashida. Vengo da Marocco, 47 anni, vivo a Bergamo, il mio secondo paese, il mio cuore. Faccio la sarta, pulisco, cucino, cucivo. Basta, tre cose che so fare. Cucire, cucine e pulire. Come sono? Come ha detto il chef, agridolci. Alla fine sono troppo buona, a volte ingenua. Mia cucina non moderna, un po' antica, tutta basata di ricette nonni bisnonni, la porto con me delle mie infanzie e dopo io modifico piatti, faccio creo un po' di piatti di verdura, carne, cerco di modificarli e faccio pane, focacce, brioche, tutta roba, ecco, casarecce sono un po', mi piace cucinare. Grazie, grazie, vedrete che sono in grado di non deludere. Vai. Questo per me è una vittoria. Grazie, grazie. Grazie, grazie. La parola è grazie. Parlo un po' male, grazie. Perché emozionata. Anche io parlo male, ma grazie. Vai. Ciao, vai, di corsa, vai. Grazie a tutti. Dove vai? Grazie, grazie, grazie. Oggi sono Rinata, cuoca nuova. Tutti mi hanno detto, devi vincere, Rashida. Speriamo. Il mio libro di ricette, una cosa che non manca mai nelle mie ricette di Masterchef, nel libro, si vengo, è la polenta. Ciao, sono Harry, ho 32 anni, sono della Corea del Sud. Il piatto si chiama orata dorata. È un piatto coreano? No, italiano. Ci sono sapori molto delicati. Ciao, sono Emma, ho 27 anni e vengo da Fossano, in provincia di Cuneo. Sono disoccupata e nella vita, in questo momento, sto seguendo un corso di panetteria e pasticceria. Se mi dovessi descrivere in tre parole, mi definirei solare, timida e nostalgica. Dovessi definire la mia cucina, la definirei sperimentale, dolce, speziata. Ciao, sono Giovanna Eva Valenjak, detta Gio. Ho 36 anni, vengo da Vicenza, abito a Vicenza e faccio impiegata amministrativa. Acida, vieni! Non mi piace. Non è un piatto da Masterchef. Il tuo segreto è qualsiasi ingrediente che proponiamo, tu fai il stesso piatto. Non mi sono accorta. Ma non è cattivo, ma è sempre lo stesso. Tu devi uscire di più di te, almeno il te che abbiamo conosciuto fino a questo punto qui nella cucina. Allora darci una sgridata. Devi fare un passo avanti. Bravo, quello che cercavo, sono qua per questo. Ti vuoi che ti sgrido? Sì, dai, forti. Non so che non sei cattivo, però farlo. Mamma mia, che stupida che sono. Jessica. Insomma, siamo un po' nell'atmosfera di Masterchef, questa edizione che in questo momento sta andando in onda su Sky. Spiros, la sta seguendo innanzitutto questa edizione? Certo, certo, io non posso perdere Masterchef. È un personaggio questo, Rashida? Sì, Rashida è un personaggio anche forte. Sì, tra l'altro esistono già su YouTube, vedevo delle parodie di Rashida che in effetti si presta un po' per il suo modo particolare di parlare, di muoversi. Tra l'altro lei nel file che abbiamo sentito cita la polenta come il suo piatto, uno dei piatti a cui tiene di più, il che denuncia le sue radici bergamasche in parte marocchine, in parte bergamasche. Non è curiosa, Spiros, questa presenza così forte di stranieri? Nella prima edizione forse c'era meno, quando lei partecipava e poi ha vinto. Sì, nella prima edizione praticamente da quello che mi ricordo, almeno nei 18 c'ero solo io. Sì, no, per me non è insomma un fatto strano, perché come dice che Rashida quando si presenta nei suoi piatti preferiti e non manca mai è la polenta, perché vive a Bergamo, ha preso un po' dalla tradizione dove vive, dove per esempio dalla mia cucina è quello che è il mio piatto preferito. Sono i tortellini, visto che io vivo in Emilia. Certo. No, è una cosa la cucina che uno deve avere la passione. La passione è quella che ti porta avanti, che avvicini anche alla cucina regionale e tradizionale. Secondo lei chi vincerà quest'anno? Ah, ancora non lo so, ancora è presto. Ci sono di sicuro delle persone molto molto valide, molto appassionate per la Ma cucina. Ma ci faccia un nome. Molto... piace tanto Alberto. Alberto mi piace tanto, ma per come cucina, conosce molto bene la cucina, ha un modo di fare molto fine, molto elegante, molto passionale con la cucina. Insomma, trovo che Alberto avrebbe i numeri per vincere. Gotta give a little, take a little, and and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh. Siamo con Spiros, il vincitore della prima edizione di Masterchef, sulla colonna sonora del film Indovina chi viene a cena, dalla quale prendiamo spunto. Stiamo parlando dell'edizione di quest'anno. Ma prima di proseguire a parlare della trasmissione e anche del suo essere greco in Italia e del suo essere modenese anche soprattutto, volevo chiederle cosa ci cucina questa sera, perché è un onore per noi avere una sua ricetta. È una ricetta che io avevo fatto durante Masterchef, che ho dei bellissimi ricordi, quando era venuto da noi ospite lo chef Moreno Cedroni, che sono i bocconcini di San Pietro con crema di topinambure e cavolo rosso. Molto molto semplice, dobbiamo sfilettare il pesce e tagliamo piccoli cubetti al suo filetto. Avvolgerlo nella pancetta, ci vuole anche un po' di pancetta, passarlo in padella con un filo d'olio, 3 minuti per lato, non di più perché dopo il pesce si secca. Dobbiamo pulire i topinambur, li tagliamo a pezzi grossi e li facciamo bollire in acqua e frulliamo insieme la sua acqua, ovviamente sale, pepe, quello che serve, e alla fine un po' di timo. Tagliamo molto fine anche il cavolo rosso, lo sbollentiamo anche quello, e dopo con un po' d'olio e il succo di un limone, così torna anche il rosso acceso. Mettiamo sul piatto la crema di topinambur, sopra i bocconcini di San Pietro, avvolti nella pancetta, e attorno un po' di cavolo rosso, con un filo d'olio che, come disse lo chef Barbieri, non deve mai mancare. E il piatto è pronto, è molto saporito, era una prova che io avevo vinto e ho dei bellissimi ricordi, quindi è un piatto che amo particolarmente. Topinambur, tra l'altro, è un ingrediente che ultimamente vedo spesso riproposto, va un po' di moda o no? Sì, adesso va un po' di moda e poi si trova facilmente, prima invece uno faceva un pochino più fatica a trovarlo, adesso si trova, ha un sapore particolare tra... patate e carciofo insieme, è veramente buono, insomma è da provare. Sentiamo qualcosa invece che riguarda i giudici di Masterchef in questa e nelle altre edizioni, in questo montaggio, perché passano sempre per i cattivi della situazione, questo ne è un esempio. Che non vieni qui con tutto quell'ambaradan lì e poi il piatto fa cagare. Ti do una valutazione un po' alla Gordon Ramsay, va bene? This dish is a piece of shit. And you, my friend, are an asshole. Il problema con sto piatto è che mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame. E devo andare all'ospedale adesso, se no muoio. Allora per me è no. Ciao. Dimmi una cosa, a cosa assomiglia questo? Guarda il colore dentro di questa sella. Com'è? Color? Marrone. Quindi? È troppo cotto. C'è dubbio. Rispondo alla domanda di Bruno, che questo piatto sembra e assaggia come un pezzo di merda. Merda. Via. Ci vuole un altro di insomma, sedico. Questi sono i giudici cattivissimi di Masterchef. Bastianich è il più duro forse, ma anche istrionico, Cracco, che fa un po' l'antipatico. Barbieri quest'anno sembra più cattivo dell'anno scorso. Spiros? Non credo che è più cattivo. Io quello che voglio dire è che stanno facendo il loro mestiere, che è quello da chef, perché nelle altre cucine l'attenzione è tanta, quindi fuori, al fuori della televisione, il vero mestiere è rigido, è troppo duro. Quindi tutto deve essere perfetto durante il servizio, devono rispettare uno l'altro. Quindi il vero mestiere è duro così. Noi magari a casa passano come dei cattivi, ma questo non vuol dire che nella loro vita personale sono cattivi, diciamo è il mestiere duro. Ecco, uno si chiede se è il mestiere che è duro oppure se insomma fa parte anche dello show, se dietro le quinte in realtà non siano proprio così. Ma io non credo che nella loro vita sono così, però ripeto, io lo vedo da parte del mestiere, il mestiere è così. Nelle cucine vere, al fuori della televisione, perché anche la cucina di MasterChef è vera, sono così, è un mestiere da militare, quindi ci chiede tante cose, tanta attenzione, tanta disciplina, tanto rispetto, perché il minimo errore può rovinare la gavetta di uno chef. Quindi, e lei lo sa, perché dopo MasterChef ha fatto un'esperienza da chef, no? In uno stage. Sì, perché dopo MasterChef ho iniziato un po' a fare vari stage nei ristoranti, quindi ho incontrato parecchi grandi chef. È veramente un mestiere difficile e duro. Chi comanda in cucina deve essere sempre ascoltato, nessuno deve fare la testa sua, cioè deve essere uno a comandare. Quindi loro stanno facendo quello che chi partecipa a quello che io veramente, anche grazie alla loro diciamo rigidità, ho imparato tante cose, che cosa vuol dire questo mestiere. Pensa di esercitarlo come mestiere, perché sappiamo che lei ha condotto il programma Help Kitchen sul canale Dea Kids e riprenderà, no, questo programma Help Kitchen. Sì. La sua carriera adesso è più televisiva, sarà più televisiva o più in una cucina come chef? Guardi, io cerco di fare tutte e due le cose. Ci vuole tempo, uno per dire sono uno chef ci vuole veramente tanto tempo. Io sto facendo questa esperienza diciamo televisiva, ho fatto anche il secondo libro e nel frattempo cerco sempre di andare a lavorare ai ristoranti per imparare, per diventare uno chef e farlo di mestiere. Quindi diciamo sto facendo anch'io il mio percorso e non ho abbandonato assolutamente il sogno di diventare uno chef o avere nel futuro il mio ristorante. Però ci vuole del tempo, bisogna impegnarsi e capire il mestiere, come quello che le ho detto prima. Se uno va a fare solo MasterChef e si ferma lì, forse pensa che i giudici sono cattivi, ma non sono cattivi, è il mestiere che è duro. Sono gli chef che sono cattivi. No. Che bisogna essere un po' così rigorosi, un po', diciamo, come diceva lei, esatto, dirigere una cucina. È una regola del mestiere, ogni mestiere ha le sue regole che vanno rispettate. Se adesso ci mancherebbe, io non voglio dire che uno va a lavorare che per insegnarti una cosa ti devono sbattere la padella in testa, no, questo no, sempre nel limite del rispetto. Però un mestiere che veramente non è facile. Ogni persona ha il suo diciamo carattere, in base al carattere dopo nel mestiere lo gestisce diversamente, ognuno ha il suo modo di gestire le cose, di pensarle e farle. Senta, tornando alla cucina, lei appunto viene dalla Grecia, c'è un piatto della sua infanzia, un piatto greco che ricorda con nostalgia? No, un piatto in particolare che mi ricordo con nostalgia, no, magari ho degli odori che mi ricordo con nostalgia, tipo in Grecia si usa molto l'aneto. Come in Sicilia si usa il finocchietto selvatico nella cucina, ecco, è un odore che quando io lo sento mi ricorda molto diciamo la Grecia, uno degli odori per esempio, che qua diciamo si usa al nord un pochino meno. Abbiamo avuto un'altra ospite di origine greca tempo fa, una ricercatrice del CNR, che mi raccontava che in realtà i piatti della Grecia che si mangiano in Italia nei ristoranti, in realtà lei ritrova poco dei gusti veri, no? Sono un po' standardizzati, la classica non so, l'insalata greca invece che il moussaka, e diceva beh, questo è una stereotipizzazione del paese, come spesso accade. Ma questo succede per tutte le cucine, come non lo so, andiamo a mangiare spaghetti al pomodoro in Inghilterra, cioè cambiano, non sono quelli che troviamo qua oppure fatti da una persona che veramente conosce la cucina italiana. Questo succede e per quello insomma uno bisogna mangiare le cose al posto giusto. E da quanto tempo non torna in Grecia? Poco tempo fa sono tornato, saranno 2 mesi fa che ero andato. Ah, da poco quindi. Sì, e ha trovato il paese cambiato? Io ho visto una puntata di Piazza Pulita sulla crisi economica greca durante la quale lei era ospite. Raccontava una situazione davvero drammatica del suo paese. È cambiato qualcosa? Certo. Da quando sono andato a Piazza Pulita ad oggi è peggiorata ancora la situazione, quindi... speriamo che, come dicono, è vero che nel 2014 avrà una ripresa il paese. Veramente è cambiato e la situazione per me è peggiorata. Diceva che già all'aeroporto lei si accorgeva del clima di anno in anno quando torna, che cambiava. Certo, questa volta certo, com'è andata che... l'atterraggio? L'aeroporto era deserto. L'aeroporto era deserto. Ancora, quindi... diciamo che veramente la situazione è arrivata al limite. Sono un ottimista io, forse non lo so. Credo a una grande ripresa del paese. E dell'Italia invece con un occhio anche ormai italiano appunto, però comunque internazionale, perché so che ha vissuto anche in Gran Bretagna se non sbaglio, e anche se vive a Modena da molti anni può un attimino guardare l'Italia con un po' di distacco forse. La situazione rispetto alla Grecia come la vede, più positiva? Si vedono questi semi di speranza almeno in Italia? Secondo me sì. Sì, rispetto agli amici e ai parenti in Grecia c'è differenza, ad esempio il costo della vita, gli stipendi, lei nota una differenza? C'è differenza, c'è da dire che anche qua la crisi si è fatta sentire. A Modena ad esempio? Anche a Modena, perché insomma si fa sentire la crisi. Siamo messi meglio dalla Grecia, quello è vero, ci sono ancora un pochino più opportunità qua di fare e continuare ognuno il suo lavoro, sicuramente siamo messi meglio, però la crisi si sente. Si sente. Ho letto che uno dei suoi sogni è quello di aprire un ristorante a Modena, a che punto certo. È con questo progetto? Ancora un sogno che sta andando avanti, diciamo che siamo in buon punto. Io ripeto quello che ho detto poco fa, non volevo farlo subito perché io ho la passione per la cucina, amo cucinare, amo la cucina italiana, la mia vita è qua e sempre ho sognato questo ristorante. Lo volevo fare una cosa che mi rappresenta, che sono io, e volevo soprattutto imparare il mestiere, perché MasterChef mi ha dato un'opportunità enorme, mi ha cambiato la vita e quindi non volevo buttare questo regalo, questa opportunità che mi è stata data. Quindi faccio anche altre cose e quando dedico un po' di tempo anche per andare a vedere e imparare il mestiere. 2015 quindi? Speriamo. Spero di sì, no? ce la faremo. In bocca al lupo allora per questo progetto e per gli altri. Grazie a Spiros che è stato ospite di questa puntata, lo ripetiamo, il vincitore della prima edizione di MasterChef. Buona serata, grazie.